scorreremo, Deo si affanni con quel sarai la tua salute rifiorirà. Oh,

啊 ，Domani, Arenio, Domani。 Oh, my God. Thank you. Come on. Sous-titrage Société Radio-Canada Mio, urge l'opera, lo sai? Vado, vado. E quella donna bionda lassù, la Maddalena, ti piace? E quanto bello, prezioso e lacio. Ce ne tanti bel mondo! Aspetta! Aspetta! E la tanti! Vedi, tomo, tornami, tornami! Lo caso! E non sì, e per me spinto! Oh,

Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con detto un detto sole tu puoi, le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito. Thank you. e come sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chi amerà poter fluido.

Thank you.